peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi direi che potremmo definire la tromba come protagonista. Sono quattro dischi, quattro novità uscite negli ultimi mesi in sostanza, e che comunque hanno o come protagonisti assoluti oppure come sidemen di valore dei trombettisti, diciamo, importanti di queste generazioni, delle ultime generazioni, sono i più notevoli, tra i più notevoli comunque. Cominciando da uno che non è un trombettista, quindi tanto per cominciare, che è Chad Taylor, batterista di Philadelphia, ma comunque, come dire, si trasferisce anche musicalmente ed è influenzato dall'ambiente chicagoano. La sua collaborazione frequente con Mazurek, appunto trombettista, e con altri dell'ambiente chicagoano gli hanno dato, diciamo, l'inizio della sua attività, della sua visibilità anche internazionale. E poi, come dire, naturalmente non può mancare il rapporto con la Grande Mela e con le infinite attività che si svolgono appunto a New York. È uscito, non sono molte le occasioni per sentire Chad Taylor come leader, di un quintetto, è uscito questo quintetto, un lavoro per quintetto, intitolato Smoke Shifter, che è, diciamo, sul quale lui ha puntato anche da un punto di vista metodologico. E intanto il trombettista di cui parlavo, che è uno dei, diciamo, dei sidemen d'eccezione, è Jonathan Finlayson, che è un straordinario trombettista newyorkese e che però è anche diciamo l'ospite d'onore, nel senso che di fatto non era un quintetto ma era un quartetto, questo pensato da Chad Taylor, al quale si è aggiunta la tromba di Finlayson, perché Chad Taylor cercava anche una sonorità della tromba, della quale evidentemente fa fatica a fare a meno. Ma è un quartetto nel quale Chad Taylor cerca un'interazione costante. E il concetto stesso del jazz per lui è la capacità di interagire, di ascoltare e di farsi ascoltare, questa leadership condivisa. Sono brani che sono scritti un po' da tutti i componenti della formazione, non sono musicisti molto conosciuti al di fuori dell'ambiente di Filadelfia, poi peraltro, e le composizioni appunto sono suddivise abbastanza equamente, a parte Finlayson che non ne scrive neanche uno. Sono i musicisti, sono Brian Rogers al tenore, sax tenore, col quale ha frequentemente lavorato Chad Taylor, e quindi una conoscenza che parte dagli inizi del Novecento, cioè del 2000, Novecento un po' eccessivo. E poi Victor Veiria Branco al vibrafono, ottimo vibrafonista, Matt Engel al basso e appunto Chad Taylor alla batteria, naturalmente Jonathan Finlayson alla tromba. Ascoltiamo il primo brano che dà anche un po' il carattere di questo disco. Thank you. Era il quintetto di Chad Taylor, quest'ultimo lavoro, un lavoro interessante, anche riconosciuto dalla critica internazionale come un lavoro positivo, Smoke Shifter, titolato, uscito per l'etichetta Otherly Love Records. Passando ad altro, trombettista nato a Chicago, quindi l'area di Chicago rimane privilegiata oggi, Amir El Safar, è un trombettista che qualche anno fa è uscito come nuovo talento di grande interesse, incidendo per l'etichetta P Records, newyorkese. E musicista che, figlio di immigrati iracheni, ha cercato e cerca tuttora dei punti di incontro tra il linguaggio della musica araba e il jazz, però lo fa con la sua intelligenza musicale. Sono molti ovviamente quelli provenienti dalla cultura araba che cercano delle strade anche nuove. Lui lo fa con la sua intelligenza musicale, che è anche una preparazione molto forte da un punto di vista teorico della musica contemporanea e classica, accademica diciamo, perché è anche autore di diverse composizioni per orchestra, ha anche prodotto delle cose orchestrali qualche tempo fa. È uscito questo disco, New Quartet Live at Pierre Boulez Salle. Questa è una formazione quindi registrata in Europa, e con Ole Mastisen al sax tenore, Tania Giannulli al microtone al piano. Interessante Tania Giannulli, greca, una ragazza, insomma, una giovane donna, pianista, compositrice anche, sempre legati anche questo, musicisti legati alla musica anche contemporanea. E Tania Giannulli, oltre a suonare in sale da concerto, in repertorio classico e anche musica contemporanea, utilizza la tastiera, quindi il pianoforte, per cercare anche sonorità diverse. In questo caso suona il microtone al piano, in sostanza è un pianoforte che viene truccato per suonare anche dei semitoni, delle note al di fuori del clavicembalo temperato. Ne viene fuori una sorta di atmosfera quasi onirica e comunque direi ben strana, ma interessante. E poi alla batteria un pilastro, che Thomas Fujiwara, che è sicuramente uno dei sidemen batteristi più bravi dell'area, sia newyorkese che non solo, a quanto pare. E quindi è un quartetto interessante questo di Amir El Safar, senza raggiungere vette stratosferiche da un punto di vista qualitativo, però la tromba di Amir El Safar è decisamente sempre di alto livello, una bella sonorità anche molto personale. E poi bravo Mathisen al tenore, e interessante il pianoforte di Tania Giannulli. Ascoltiamo tre brani firmati dallo stesso Amir El Safar. Questo era il quartetto di Amir El Safar, in una registrazione dal vivo, quindi interessante anche la compattezza, la fluidità del quartetto, del gruppo. E, passando ad un'altra tromba, in questo caso è una giovane, no, ma anche lei più o meno coetanea di quelli che stiamo ascoltando, si sta avvicinando alla cinquantina, una canadese di talento, Lina Alemanno, che è uscita con, è piuttosto attiva, tutti gli anni esce con qualche pubblicazione. E in questo quartetto il disco è intitolato Diptychs, Dio ci aiuti, della Lumo Records, una formazione con Brody West al sax contralto, Andrew Downing al contrabbasso e Nick Fraser alla batteria. Diciamo che l'unico è Nick Fraser di personaggi con un certo nome, però naturalmente sono tutti musicisti ben preparati. Diciamo che i territori canadesi sono molto fertili nel proporre talenti importanti, che poi spesso emigrano a New York, prevalentemente a New York, ma non solo, poi possono anche ritornare in Canada per incidere o collaborare. Questo direi che fa parte comunque di un passo interessante, sempre fatto da questa trombettista, che ha un talento tecnico musicale piuttosto notevole ed è anche piuttosto interessante come compositrice. Ascoltiamo, preso da questo ultimo lavoro, in quartetto, due brani scritti da lei. Il quartetto di Lina Alemano con in quest'ultimo lavoro Diptychs uscito per la Lumo Records, quartetto direi interessante, che è più leggibile anche tra l'altro, perché Lina Alemano è sempre legata a un certo ambiente di ricerca nell'ambito dello sviluppo musicale. L'ultimo personaggio di oggi è il più anziano, direi anche, si tratta di Russ Johnson, per me un bravissimo trombettista, musicista che è riuscito ad essere un sideman molto interessante in diverse occasioni. Ha già una carriera alle spalle che va dalla fine degli anni 90 e appunto ha attraversato gli ultimi 30 anni da sideman, soprattutto da sideman, perché le pubblicazioni fatte a proprio nome sono veramente poche. È un peccato, è stato a mio avviso piuttosto sottovalutato, non dai musicisti perché sanno benissimo le sue qualità, ma non credo proprio che sia conosciuto da un largo pubblico. È uscito per l'etichetta AT-AT, la Aesthetics, quindi un'etichetta svizzera se non sbaglio, che sta lavorando per, molto antica ormai come etichetta, che sta lavorando prevalentemente nel recupero dei classici della storia del jazz, però con qualche pubblicazione di cose interessanti che gli vengono proposte spesso dai musicisti stessi. In questo caso Russ Johnson presenta un trio, una formazione in trio con tromba, naturalmente la sua, un contrabbasso Christian Weber e la batteria di Dieter Ulrich. Un disco che è uscito appunto alcuni mesi fa, alla fine degli anni del 25, insomma, dell'anno scorso. Secondo me, mette in luce le sue qualità sia di fraseggio che di sonorità, diciamo. Ha una musicalità piuttosto intelligente anche nello sviluppo, senza essere invadente, senza essere particolarmente evidente anche. Il disco è intitolato To Walk on Eggshells. Ascoltiamo alcune delle composizioni di questo disco, un disco secondo me decisamente interessante. Thank you.